Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda il Consiglio dei Ministri, oggi qualche decisione, come i nostri GR vi hanno raccontato, è arrivata. Alcuni rinvii invece sono stati fatti. Per quello che ha a che fare invece con i temi di questa puntata, partiremo subito anche dalla politica estera di questo paese. Lo dico perché le sfide non sono solo interne all'Europa, ma anche nell'allargamento dell'Europa stessa, e lo dico anche perché oggi di politica estera europea parla in maniera molto molto evocativa e chiara il settimanale britannico Economist. Che cosa è successo sull'Economist? Beh, l'Economist ha pubblicato nel suo numero odierno una copertina in cui sostanzialmente si vedono Angela Merkel, Hollande, Rajoy, Barroso, Paolo Coelho, ma anche Mario Draghi, Enrico Letta e Samaras, tutti in marcia verso un precipizio, dal titolo The Sleepwalkers, quindi i sonnambuli, e il sottotitolo In attesa di un disastro europeo. Perché questo? Perché, dice l'Economist, la somma dell'indebitamento dei governi privati e delle imprese è eccessivo, le banche sono sottocapitalizzate, in Europa sempre, anche se gli interessi sono bassi, le aziende, le imprese dell'Europa del Sud, le piccole e medie soprattutto, soffrono per una crudele stretta creditizia. Allora, anche di questo parleremo, in una settimana che è iniziata con i dati Istat del 2012, quelli diffusi martedì, e poi è continuata con l'allarme forte lanciato ieri dal presidente Confindustria Squinzi. Anche il nord è sull'orlo del baratro, per poi arrivare oggi alla copertina dell'Economist. Però, fatemi dare un gufo all'Economist, perché insomma, con massimo rispetto, anche dire in attesa di un disastro europeo non è che proprio ci renda il fine settimana migliore. Allora, un bel gufetto ai colleghi dell'Economist. Partiamo dalle borse. Hanno tentato di riprendersi, ci ha provato questa mattina a Tokyo, alti e bassi, alla fine ha chiuso con un più 0,90%, però in Europa invece alla fine si va verso una chiusura debole, anche se non così debole come quella di ieri, meno 0,10% Parigi, meno 0,30% Francoforte, meno 0,30% fa anche Milano, Londra meno 0,55%, l'America perde lo 0,26%. Bene oggi Fiat, più 3%, Mediobanca più 1,20%, Snam più 1% come Prismian, male Telecom Italia, meno 3,30%, all'indomani appunto del Consiglio di Amministrazione che doveva valutare lo spin-off, separazione della rete, Saipem meno 3%, Banco Popolare meno 2,70%, A2A meno 2,40%, UbiBanca meno 2,20%, Finmeccanica meno 1,80%, ST Microelectronics meno 1,50, Unicredit meno 1,30, come Buzzi Unicem l'1,1 lo perde Eni, ma anche Diasorin. Euro quota 1,2914, le altre notizie in breve, dicevo, rimborsate dalle banche dell'area euro in anticipo rispetto ai tempi previsti altri 8 miliardi di euro ricevuti attraverso i due maxi prestiti. Ricorderete i due maxi prestiti che ha fatto Mario Draghi, tutti e due da 500 miliardi, per un totale di 1000 miliardi. di euro, e tra l'altro l'Italia ne ha presi 220, 230, forse un po' di più di miliardi, vado a memoria. Dicevo, le banche europee fino adesso hanno già restituito 300 miliardi dei 1000 avuti in prestito, ma non le banche italiane, che dei 260 per la precisione miliardi ricevuti non hanno ancora rimborsato un euro. Le banche spagnole hanno già restituito 60 miliardi sui 300 ricevuti come prestito da Draghi, le banche francesi 50 miliardi su 160, le tedesche 45 miliardi su 70, noi ancora nulla. La cosa non è che ci lasci senza preoccupazione, che per mantenere questa media europea almeno un terzo avremmo dovuto restituirlo, quindi avremmo già dovuto restituire sostanzialmente 80-90 miliardi di euro, ma non è ancora ritornato un euro a Mario Draghi. Ha ragione l'ascoltatore, ci stava arrivando Hans Weidmann, dacci oggi la castroneria tedesca quotidiana, non se ne può veramente più. Comunque adesso ci arriviamo, anzi arriviamoci subito e basta, così facciamo un doppio gufo in formato weekend oggi, gufo e sua moglie, la gufa. Perché? Perché Hans Weidmann non è uno qualunque, è il governatore della banca centrale tedesca, della Bundesbank, la potentissima Bundesbank, e quando parla insomma deve pesare bene le sue parole, tutti noi dobbiamo farlo, a maggior ragione se tu sei il presidente della più importante banca centrale dell'area euro. Perché lo dico? Perché lui, dopo essere partito bene, non c'è nessun conflitto tra rigore e crescita, e quindi si può perseguire il rigore sui conti pubblici e però avere anche la crescita, almeno nel lungo termine. I conti pubblici solidi, ha detto Weidmann, hanno un impatto positivo sulla crescita potenziale, i paesi con alto debito e tassi elevati sul debito sovrano devono mostrare i progressi, che la loro posizione sarà solida, e fin qua va tutto bene. Quello che mi fa impazzire è che con le tensioni che ci sono, con l'attenzione che c'è, appunto la copertina dell'Economist, verso l'Europa che sembra appunto fatta da sonnambuli che vanno verso un precipizio, incapaci di prendere decisioni rapide e veloci, incapaci di tramutare gli annunci in fatti concreti, incapaci di dare un ossigeno alle imprese piccole e medie del sud Europa. Beh, ciò nonostante, con che se ne esce Weidmann? Beh, in questo intervento dice: comunque, a lungo termine dobbiamo garantire la possibilità che alla fine uno Stato possa andare in bancarotta. In bancarotta. La possibilità di andare in bancarotta, in default, è un ingrediente chiave per la disciplina del mercato. E per garantire questa possibilità l'area euro sta lavorando alla regolamentazione finanziaria e alla costruzione di un'unione bancaria che rompa il legame tra banche e stati sovrani. Allora, è vero che l'Unione Europea sta lavorando per avere un'unione bancaria più forte, perché è fondamentale, e che rompa il legame con gli stati sovrani va anche bene, nel senso che poi se uno Stato fallisce una banca non deve seguirlo, se c'è un'unione bancaria, e viceversa, il fallimento di una banca non deve mettere in difficoltà uno Stato, e l'ente di vigilanza deve essere la BCE e quant'altro. Però io vorrei capire che senso ha discettare come se una coppia che è già in crisi si mettesse a ragionare su quale altro partner potrei scegliermi. È chiaro che metti benzina sul fuoco. Che senso ha dire in questo momento, a lungo termine dobbiamo garantire che gli stati possano andare in bancarotta, con quello che è successo quando hanno detto loro, Sarkozy e la Merkel, che la Grecia poteva anche non essere salvata? Avete visto che ci siamo beccati 2 anni di attacco speculativo all'euro. Poi Cipro, la famosa frase di Dijsselbloem, no? Ma il modello Cipro è un modello per le altre banche europee, pure lì un'altra mazzata. Adesso dire che a lungo termine dobbiamo garantire che alla fine uno Stato possa andare in bancarotta significa ipotizzare, visto che tu sei presidente della Bundesbank, che si stia ragionando che qualche Stato possa andare in bancarotta. Ma con i ragionamenti speculativi lasciamoli ai comitati ristretti, alle aule universitarie, ai libri che non legge nessuno. Quando uno parla di fronte a un pubblico e viene ripreso da tutte le agenzie mondiali perché sei il presidente della Bundesbank, deve stare attento e non dire è giusto che nel lungo termine uno Stato possa fallire, perché tutti iniziano a pensare chi potrebbe essere questo Stato che potrebbe fallire a lungo termine. Quindi non so come si dica gufo in tedesco, ma si becca la gufa, la moglie del gufetto, il caro Hans Widmann, e stia un po' più attento quando parla, se possiamo dare questo modestissimo consiglio da paese periferico. Tra l'altro, ecco, non volevo interrompere la gufa, ma c'era Keynes che diceva, secondo me era Keynes che diceva, nel lungo termine, visto che gli stati devono poter fallire nel lungo termine, ricordo a Widmann che nel lungo termine saremo tutti morti. Lunghissimo termine. Vabbè, notizie dall'Italia, le retribuzioni ad aprile fanno più 1,4% sopra leggermente l'inflazione. I debiti, gli italiani sono sempre nel frattempo più indebitati. Il dato emerge dal rapporto Unirec di oggi. Hanno lasciato in sospeso le famiglie italiane nel 2012 i pagamenti per quasi 34 miliardi, che è l'80% dei 43 miliardi affidati alle società di recupero crediti, e ben 24 miliardi riguardano le sole famiglie. E sono tornate a aumentare anche le cambiali, più 5% sul 2011 e pensate più 44% sul 2009. Le cambiali erano quasi scomparse, e anche questo è un segnale non bello della crisi. Mentre la produzione metalmeccanica intanto nei primi tre mesi è diminuita dell'1,4%, ma soprattutto del 7% rispetto al 2012 per colpa di un crollo della produzione di autoveicoli, meno 17% gli autoveicoli prodotti a marzo rispetto al marzo del nei primi tre mesi dell'anno, scusatemi, rispetto ai primi tre mesi del 2012. Vi è stato un sorpasso storico. Per la prima volta in 48 anni la bici ha superato l'automobile come vendite. Si sono vendute più bici che automobili. Lo dico con massimo rispetto per i produttori d'auto che abbiamo appena incontrato a Bologna due giorni fa. Non è detto che sia un male, non è detto che questa sia una notizia negativa, il fatto che si utilizzino più bici rispetto alle auto. Se ci fossero anche le piste ciclabili saremmo ancora più contenti. A proposito di auto, oggi il presidente della Fiat, John Elkann, ha risposto alle polemiche scatenate dall'annuncio che Fiat Industrial, quindi auto e camion e trattori, avrebbe spostato la sua sede legale in Gran Bretagna, via Olanda, per versare 500 milioni in meno di euro di tasse allo Stato italiano. Già aveva risposto Fiat, però oggi da Bagnaia John Elkann ha detto attenzione, le organizzazioni grandi come la nostra non hanno solo una sede ma ne hanno tante. Sono polemiche e non realtà. La realtà è che noi abbiamo attività in tutto il mondo e dove noi facciamo bene e guadagniamo e facciamo profitti paghiamo le tasse, e non nessuno ha mai voluto evitare quello. Nel frattempo l'Ilva continuano i sequestri da Guardia di Finanza, questa volta a Taranto e a Milano, beni mobili e immobili per 8 miliardi di euro nei confronti, erano disponibilità economiche sequestrate nei confronti della famiglia Riva, disposto dal Tribunale di Taranto. La finanza sta operando in base alla legge del 2001, la 231, che disciplina la responsabilità giuridica di imprese, che riguarda anche i reati ambientali. I sequestri cominciati oggi infatti saranno per equivalente, cioè verranno eseguiti fino a raggiungere la montata della somma che si ritiene necessaria all'esecuzione delle opere di risanamento ambientale, appunto 8 miliardi. Ecco perché vengono sequestrati questi beni. Non c'entra nulla con l'inchiesta che ha visto sequestro invece di decine di milioni ai fratelli Riva, ma con l'accusa di riciclaggio e evasione fiscale e quant'altro. Ma non sono stati sequestrati beni utili alla produzione. Il Consiglio dei Ministri, allora, un rinvio per il bonus energia, ossia il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà la proroga fino al 31 dicembre dei due bonus del 55% per riqualificare in maniera energetica gli edifici, del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Però poi quasi 2 miliardi sono tirati fuori a titolo di anticipo per il deficit di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sicilia. E poi altre dichiarazioni riguardano il finanziamento pubblico ai partiti, perché Enrico Letta oggi ha ricordato su Twitter: abbiamo trovato l'accordo sull'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, ora la ragioneria deve preparare le norme fiscali del DDL. E questa del finanziamento pubblico ai partiti è una notizia che ci porta direttamente al nostro appuntamento. Prima però vi faccio ascoltare, a proposito di governo, che cosa ha detto questa mattina a 9 in punto a Radio 24 il ministro all'istruzione Maria Chiara Carrozza. Ha detto una cosa molto molto leggera: o si danno più soldi alla scuola o io mi dimetto. Vedo margini, perché altrimenti devo smettere di fare il ministro dell'istruzione. Quindi o ci sono margini per reinvestimento nel servizio pubblico e nella scuola pubblica, oppure devo smettere di fare il ministro dell'istruzione. Si dimetterebbe. Questo è necessario per il futuro del nostro paese. Si dimetterebbe nell'eventualità. Non ci sono strade disponibili. Siamo in una situazione drammatica. Dobbiamo mettere in sicurezza le nostre scuole, dobbiamo metterle in grado di proteggere i nostri bambini, non metterli a rischio. Quindi abbiamo bisogno prima di tutto di un investimento nell'edilizia scolastica, e poi abbiamo bisogno di più insegnanti. Credo che il futuro del nostro paese si possa giocare con un esercito di nuovi insegnanti che davvero ci permettano di migliorare la qualità del nostro servizio. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, mamma mia, mi sa che toccherà dopo il gufo la gufa tirar fuori anche il gufino. A me no, stiamo esaurendo la voliera, adesso vi spiegherò perché, però un attimo, andiamo con ordine, no? Perché è appena uscita un'agenzia che vabbè. Allora, da Palermo, l'ultima follia di Palermo: ci sono i tram, mancano le rotaie. Ma perché mi fate leggere certe cose? Ci sono i tram, mancano le rotaie. E uno, chi c'è il pane non ha i denti, ma ancora. Il primo vagone è stato consegnato con puntualità il 18 maggio di 2 anni fa dalla sede austriaca del colosso Bombardier. Poi sono arrivati altri 16 vagoni, 21 milioni di euro spesi, sono tutti fermi nella rimessa del quartiere di Brancaccio. Motivo? Beh, un dettaglio: mancano i binari su cui farli andare si tram. Il consorzio SIS, che si è aggiudicato l'appalto per le rotaie delle tre linee, ha iniziato i lavori nel 2006, si è poi ritirato. Il comune di Palermo spiega che il consorzio ci deve 30 milioni di euro. Non possiamo andare avanti un giorno in più, così saranno licenziati 130 operai, più altri 170 nell'indotto, e i cantieri si fermano. Intanto però mezza Palermo è stata sventrata, la prima linea è pronta al 70%, 133 milioni ormai spesi, oltre al costo dei vagoni, 154 milioni andati persi. Perché? È tutta colpa di una maxi variante al progetto iniziale, che include il raddoppio del ponte sul fiume Oreto, il consolidamento del terreno sotto un deposito a rischio geologico e l'esproprio di una serie di terreni, un costo aggiuntivo di 89 milioni, che ha fatto lievitare il costo complessivo da 216 a 320 milioni. I comuni hanno concesso la variante sulla parola. Poi non si sono accorti però che il costo aggiuntivo non era stato utilizzato dalla Corte dei Conti, perché la Regione non ha trasmesso le carte a Roma. Il Comune non ha seguito l'iter, il Presidente dell'AMAT ha lasciato il suo posto per candidarsi alle elezioni politiche, tra l'altro stupore trombato. Ora, qui c'è una fotografia di come si sprecano non solo i soldi, si spreca il tempo e l'energia. Perché? C'è una variante da 90 milioni di euro. Vabbè, io immagino che sia necessario, però uno può fare anche qualche perizia in più. Perché improvvisamente scoprite che dovete fare un secondo ponte sul fiume Oreto in una regione a alto rischio mafioso? Sappiamo che nelle varianti d'opera è inutile girarci attorno, si infila spesso la criminalità organizzata, magari non in questo caso, però attenzione, andate a verificare la cosa. Ma la cosa mi fa impazzire che la regione non trasmette gli atti a Roma e quindi la Corte dei Conti non può approvare qualcosa che non ha visto. Il comune se ne frega, il presidente Lamart si candida in politica, viene pure trombato, nel frattempo arrivano i 16 vagoni dall'Austria. Ma vi rendete conto che manco a teatro si riesce a fare una cosa del genere? Ci spostiamo in Molise, dove è stata pignorata per debiti la sede della regione Molise a Roma. Io sarei per chiuderla proprio. Adesso voi dovete spiegarmi cosa c'è, che obiettivo e utilità ha la sede distaccata a Roma dalla regione Molise. Già in Molise è una regione piccolissima, al massimo rispetto. Ma a Roma che devono fare questi? Poi è vicina, capito, dell'ambasciata boliviana a Roma, vabbè, ma la sede della regione Molise a Roma pure pignorata, perché il Molise ha tre sedi fuori da regionali, ne ha due a Roma e una a Bruxelles, pure lì, no? Io immagino che il ruolo di potentissima lobby del Molise a Bruxelles faccia tremare i polsi ai funzionari europei quando devono decidere gli stanziamenti. Quindi ci paghiamo, e si pagano con l'addizionale regionale, i cittadini molisani, una sede a Bruxelles e due a Roma. La sede in via Nomentana pignorata per debiti non orati dalla regione. Ecco perché non è più possibile immaginare la vendita di questa sede, non riescono neanche più a venderla. Vabbò. Leggo ancora del TFR di Andreotti. È il TFR di Andreotti, ma ne abbiamo già parlato. Leggo solo una cosa, che è la rivincita di Batman. Di Batman fiorito, non quello dei Robin. Batman fiorito, perché a 8 mesi di distanza dall'esplosione del suo caso, lui ha tirato in mezzo un insieme di persone con lo scandalo delle spese pazze per l'intero gruppo regionale del PDL, e ha tirato in ballo anche 8 consiglieri. Siccome sono 8 nomi, li leggo velocemente per non ammorbarvi, però avrei bisogno di una base maiella, una roba del genere. Vai. Francesco Battistoni, acerrimo avversario di Fiorito, ha chiesto rimborsi per oltre 64.000 euro per attività politica nel Viterbese, noleggio auto, buoni benzina, francobolli e cene per centinaia di persone. Andrea Bernaudo, cene a base di ostriche e consulenze fittizie denunciate da Fiorito. Giancarlo Miele, 1.000 euro acquistati di cravatte e di vini, tutto faceva parte dell'attività politica. Cioè, ubriacava gli elettori prima che entrassero a votare, non lo so. I servizi fotografici da 1.000 euro e gli aperitivi da... questi riguardano invece Veronica Cappellaro. Servizi fotografici da 1.000 euro e aperitivi per un totale di 17.000 euro di aperitivi. Auguri, attenzione alla cirrosi. Ma magari erano analcolici. Lidia Nobili, che ha fatturato in 8 volte 150.000 euro alla stessa società Lallaria, che organizza eventi politici, sempre lei, 8 volte, una dopo l'altra. Chiara Colosimo ha fatturato 50.000 euro per le manifestazioni elettorali ed era a sua volta capogruppo dopo Battistoni. Carlo De Romanis, quello è mitico, quello della festa dei gladiatori, vi ricordate che poi c'era di tutto perché erano vestiti anche con costumi fuori luogo, manco sapevano come si vestissero i gladiatori, con le facce da porcelli. Da maiali, gli invitati vestiti da maiali, 57.000 euro in conto al partito e un finanziamento da 71.000 euro all'associazione giovani del PPE. Quella festa a Cinecittà fu famosa perché appunto gli uomini si vestivano da maiali, alcuni, pensate un po', non dovettero nemmeno mettere la maschera. Meteo. Focus Economia. Alle 17.39 minuti riprende Focus Economia e adesso vi dico perché oggi è una voliera, non è un programma, una voliera di gufi. Perché dopo l'Economist e il presidente della Bundesbank, Widmann, mo è arrivato pure il presidente del Monte dei Paschi di Siena, al secolo Alessandro Profumo. Che cosa ha detto Profumo 20 minuti fa? Una cosa leggerissima: il problema del Monte dei Paschi di Siena può accadere in altri casi in Italia. A parte che chiamare quello del Monte dei Paschi il problema, la banca che era fallita, l'abbiamo salvata con 4 miliardi, hanno distrutto valore, si sono mangiati milioni, ci sono indagati, conti, rogatorie, soldi che finiscono a Jersey nei paradisi fiscali, operazioni con la mazzetta, con la banda del 5%, il problema nella vita è un altro, il problema del Monte dei Paschi. Però non capisco se il problema sia solo, cioè, l'utilizzo di strumenti altissimo rischio per coprire le perdite mangiandoci sopra anche le tangenti, il buco. E poi, se posso permettermi un suggerimento a Alessandro Profumo, attenzione, perché lei è stato anche il numero uno dell'Unicredit, banchiere di lungo corso. Se uno come lei dice il problema del Monte dei Paschi di Siena può accadere in altre case in Italia, noi pensiamo che lei sappia molto di più di quello che dice, cioè non è che uno al bar dice, ma secondo me, attenzione. Però per essere, esorcizzare anche Profumo, gli diamo un bel gufo, immaginando che abbia voluto tirare una gufata e non si riferisse a casi veri, se no vorrebbe dire che adesso parte la caccia a chi è il prossimo Monte dei Paschi di Siena. Gufo per Profumo, eh. Non lo so. Ma che è il tempo, che tutti con tempo iniziano a parlare, quello che dice che gli stati europei devono poter fallire nel lungo termine, Widmann, l'Economist che dice che siamo pronti al balzo, mi mancava Profumo che dice, ma il Monte dei Paschi può accadere in altri casi in Italia, le agenzie ovviamente l'hanno battuto con mille flash, speriamo in una correzione, speriamo che abbia fatto un ragionamento teorico, eh. Guido Maurino, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Le dichiarazioni sono arrivate alle 17:19 minuti, non ho visto se hanno avuto un impatto sulla borsa, sui titoli bancari. No, non hanno avuto un diretto impatto sui titoli bancari, che comunque oggi non si sono comportati particolarmente bene, perché hanno sofferto la risalita dello spread che è tornato ad avvicinarsi a quota 280 punti base, quindi comunque oggi non una giornata positiva a prescindere dalle dichiarazioni di Profumo. Vabbè, Telecom Italia però perde il 3,40, il peggior titolo dopo il CDA di Consiglio di Amministrazione di ieri e appunto la parte che riguardava anche lo spin-off della rete. Sì, il CDA ha deciso di riaggiornarsi sullo spin-off della rete, anche se la strada sembra abbastanza tracciata, una decisione dovrebbe essere presa in un prossimo CDA il 30 maggio. Adesso tutti gli operatori sono a interrogarsi su quale sarà la valutazione della rete. Sono circolate in questi giorni delle cifre, 14 miliardi, ma proprio su una cifra del genere potrebbe riaprirsi lo scontro con la Cassa Depositi e Prestiti, candidata ad acquistare l'infrastruttura, per cui insomma un po' di incertezza, unita al fatto che nei giorni scorsi Telecom Italia, proprio in attesa del CDA di ieri, si era mossa comunque meglio degli altri titoli e oggi ha fatto sì che il titolo perdesse quasi il 3,4%. Ancora sui titoli invece, oltre a Telecom, A2A perde il 2,70, beh, Banco Popolare meno 3,27, lo dicevamo, do le banche, tanto li faccio presto, meno 2,50 UbiBanca, Unicredit meno 1,60, Popolare Emilia Romagna meno 1,30, Fondiaria meno 1,20, Intesa San Paolo meno 1% e basta, direi. Generali invece positiva più 0,35%, come la Popolare di Milano più 0,43% e Mediobanca più 1,35%. Dicevo, A2A da un lato, Saipem se ci sono novità e Snam che invece si avvantaggia di dichiarazioni di mercato. Sì, allora in qualche modo potremmo unificare Saipem e A2A, perché sotto l'attenzione degli operatori c'è il debito, che per entrambe le società è piuttosto sostenuto. Per quanto riguarda A2A, lo abbiamo già visto in passato, quando lo spread torna ad allargarsi il titolo soffre. A questo si aggiunge anche il fatto che domenica, nel fine settimana, ci saranno le elezioni di Brescia, che è uno dei due comuni azionisti forti di A2A, per cui c'è anche, fra virgolette, un po' di incertezza politica. Questo unito al debito che è tornato sotto i riflettori hanno pesato un pochettino su A2A, e la stessa cosa succede per Saipem, anche qui è il debito un pochettino sotto osservazione, qualcuno sul mercato inizia a scommettere su possibili dismissioni, cessioni di asset di Saipem per ridurre il debito, che comunque oggi ha ceduto. Per quello che riguarda invece Snam, più 1,12, oggi l'amministratore delegato di Snam Malacarne ha detto che il gruppo è interessato a TAG, il metanodotto che parte dalla Russia e arriva all'Italia, è un'infrastruttura che oggi è in mano alla Cassa Depositi e Prestiti per l'89% e che Snam guarda con interesse. Anche Enel poi si è un po' ridotto, rialzo, ha guadagnato lo 0,20%, anche qui arrivano notizie di mercato dall'Argentina, no? Sì, arrivano notizie di mercato dall'Argentina perché il governo ha riconosciuto alle imprese elettriche del paese gli extracosti sostenuti fra il 2007 e il 2013, si tratta di una sorta di adeguamento retroattivo delle tariffe che per Endesa, che è controllata da Enel, porterà un contributo sia a livello di EBITDA pari a circa 400 milioni, sia a livello di utile netto per 327 milioni. Ancora migliori e peggiori in assoluto, Telecom, lo diciamo, Telecom è addirittura il peggior titolo, no, sto dicendo una castroneria perché non mi scorreva il Telecom Italia Risparmio è il peggior titolo in assoluto, meno 3,58, e poi Cobra meno 3,60, Camfin meno 3,30 e di Saipem abbiamo detto il miglior titolo, e chiudiamo su un titolo, su una notizia positiva, il miglior titolo è Edes, più 14,60%. Sì, vuol dire settore immobiliare? Sì, è un po' di giorni che il titolo Edes del settore immobiliare va bene, ha guadagnato circa il 50%, è un gruppo in forte crisi, in forte difficoltà, che risente della crisi dell'immobiliare, però ci sono delle notizie secondo cui sta cercando un nuovo socio forte per intervenire nel capitale della società, e questo ha innescato un po' di acquisti negli ultimi giorni. Grazie Guido Maurino, e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Grazie. Adesso c'è il traffico e poi parliamo col vice ministro agli esteri della politica estera, a cavallo tra politica estera e politica economica, perché i temi sono molti, e poi arriviamo invece, visto che è la giornata di gufi, anche all'avvoltoio, all'uccellaccio per definizione, al secolo Giulio Sapelli. C'è un ascoltatore che mi chiede: ma quando metti questo gufo non ti senti un po' scemo? Sì. Traffico. Focus Economia. minuti. Allora, dicevamo delle polemiche, ma dell'allarme, anche preoccupazione, perché poi noi scherziamo, è vero, meglio scemo che gufo, potrei dire, riprendendomi all'ascoltatore di prima, lo facciamo per alleggerire, ma è ovvio che quando l'Economist fa una copertina come quella la preoccupazione è tantissima. Ma poi c'è l'appuntamento del 29 maggio, quando l'Italia dovrebbe vedersi levare la procedura di infrazione per deficit eccessivo dell'Europa. C'è un appuntamento importantissimo a fine giugno, il Consiglio europeo che dovrebbe cercare qualche politica per la crescita, insomma ce n'è abbastanza per parlare di politica estera e non solo di economia in senso stretto. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Questa copertina dell'Economist, insomma, in attesa di un disastro europeo, insomma, veramente si è già beccata il nostro gufo prima, però c'è qualche spunto, non solo di economia e di politica economica, anche a mio avviso di politica estera vera e propria. Questo alla vigilia, il 29 di maggio, del come probabile, del fatto che l'Europa alleverà la procedura di infrazione per deficit eccessivo contro l'Italia, ma soprattutto in attesa del Consiglio europeo di fine giugno. È fondamentale quello per vedere se si arriverà a qualcosa di concreto sulle politiche per la crescita. E devo dire che anche l'Economist sottolinea come le imprese dell'Europa del Sud, quindi Italia inclusa, soffrono per una crudele stretta creditizia. Vorrei parlarne a cavallo tra politica estera soprattutto, ma anche economia, con il vice ministro agli esteri Marta Dassù, che tra l'altro ha i rapporti transatlantici, quelli con i Balcani e la Russia, e tra l'altro anche le questioni dell'allargamento dell'Europa, Turchia compresa, e dell'Expo Milano 2015. Buonasera vice ministro. Buonasera. Dunque, vediamo di affrontare una volta tanto non solo in chiave economica, alla luce anche della copertina dell'Economist, secondo lei c'è a livello internazionale più un interesse a vedere un'Europa debole, frammentata, l'euro faceva molta paura in certi ambienti dell'economia e della finanza, non solo americani, o c'è una preoccupazione per un'Europa che anche e soprattutto da un punto di vista politico non riesce a trovare meccanismi più fluidi, più immediati e di carattere decisionale soprattutto? Ma certamente l'Europa in questi anni, con la lentezza della risposta alla crisi dell'Eurozona, è stata vista come un problema piuttosto che come la soluzione del problema, quindi copertine come quelle dell'Economist, a parte che riflettono sempre un po' questa sensibilità inglese, sono anche un pungolo a darsi una mossa, per così dire, cioè a cercare di rivitalizzare molto più rapidamente la crescita, e questo è il problema essenziale su cui anche il governo Letta su cui si sta concentrando fortemente anche il governo Letta. Lei lo ricordava, la nostra attesa è che la procedura di deficit eccessivo sia chiusa il 29 maggio, e questo faciliterebbe uno dei problemi che lei citava, cioè la difficoltà di accesso al credito per le imprese, che è uno dei grandi problemi. Il vantaggio, diciamo così, atteso della chiusura della procedura di deficit eccessiva, una riduzione dei costi del debito e quindi una maggiore possibilità di accesso anche al credito. E poi ci saranno i due famosi vertici a cui guardiamo con molta speranza, quello di giugno, che grazie a Enrico Letta avrà al centro il problema della disoccupazione giovanile, e quello successivo in Germania di nuovo sui problemi della disoccupazione. Quindi io direi, d'accordo, può darsi che l'Europa in questi anni abbia avuto un po' quell'immagine che ricorda l'Economist, ma si sta reagendo e io sono fiduciosa che una soluzione verrà trovata in tempi rapidi. Per quello che riguarda, lei citava giustamente anche la procedura di infrazione e i temi europei, però qui ci sono due fronti. Uno è interno all'Europa, cioè come ci diamo dei meccanismi per avere, oltre che un controllo dei conti pubblici, anche una spinta per la crescita, visto che siamo l'unica area geoeconomica al mondo che si è beccata la seconda recessione, perché tutte le altre ne sono uscite. Forse qualcosa abbiamo sbagliato come approccio. Abbiamo una struttura, come lei ricordava, diversa, in cui non c'è una banca centrale europea che possa fare la Abenomics alla giapponese, cioè lo stimolo diretto come è avvenuto nel caso, devo dire, dei paesi unitari, cioè o delle federazioni vere. L'America, il Giappone, ma anche la Cina hanno fatto delle grosse politiche di stimolo che noi non siamo riusciti a fare. Vice ministro Dassù, resti con noi, perché lei, lo dico senza nessun tipo, è una delle persone più preparate che abbiamo mai intervistato, preparate perché da anni poi gestisce l'Aspen Institute, ma insomma. Detto questo, arriviamo adesso al GR. Devo dare un po' di risposte ad alcune persone, dove sì, Giulio Seppelli sarà il nostro ospite tra poco. Ah sì, al Monte dei Paschi, chiedo Veni, io non ho mai voluto offendere gli oltre 30.000 dipendenti del Monte dei Paschi, ci mancherebbe, io ce l'ho a morte con chi ha distrutto quella banca, e Baldassarri and Company, poi vediamo le accuse se saranno confermate o no, ma nulla penso fosse pochissima, inesistente la responsabilità dei dipendenti, dei dirigenti top manager. Abbiamo visto che invece qualche lira da parte l'avevano messa anche al di sopra dei loro stipendi. Detto ciò, massimo rispetto per i dipendenti del Monte dei Paschi e per tutti i dipendenti delle banche. Io me la prendo con i manager, non faccio il debole con i forti, il forte con i deboli. come fa qualcun altro, eh? Chi sarà? GR Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei finire l'intervista con il vice ministro degli esteri Marta Dassù, lo dico senza problemi, è una persona molto molto preparata in temi di politica estera, e uscire per un attimo, vice ministro, dalla politica estera nei confronti dell'Europa, per andare invece a quella extraeuropea di cui ci occupiamo meno in questo periodo, viste anche le notizie. Glielo chiedo perché lei ha delle deleghe importanti da questo punto di vista. Ma soprattutto lei ha la delega infatti ai rapporti transatlantici, a quelli con i Balcani, con la Russia, oltre che appunto l'allargamento ed è vicinato Turchia compresa, quindi l'allargamento dell'Unione Europea, e c'è una trattativa in corso anche con gli Stati Uniti, con Obama. Ecco, che cosa dobbiamo attenderci e che beneficio potrebbe avere il paese e quindi la sua economia da un allargamento, da un'apertura degli scambi commerciali? Ma per esempio dal punto di vista delle trattative commerciali non sembrerebbe ad esempio che l'America di Obama condivida le tesi della copertina dell'Economist, perché l'America di Obama vuole costruire con l'Europa quello che viene chiamato il TTIP, quest'area per il commercio e gli investimenti. Noi stiamo mettendo a punto il mandato negoziale per la fine di giugno, e quindi l'idea è di creare un mercato unico allargato con l'armonizzazione dei standard regolatori. Le tariffe sono in realtà già molto basse e quindi quella è una ipotesi molto importante anche per l'Europa. Insomma, la ripresa può venire anche da un completamento del mercato unico e da un suo allargamento. E poi, lei diceva giustamente, ci sono i paesi forti economicamente, dinamici, che crescono ai confini dell'Europa. La Turchia è un caso fra questi. E qui la questione europea attuale ha dei rischi ma anche delle opportunità, cioè il fatto che l'Europa si stia di fatto strutturando per cerchi concentrici potrebbe facilitare il rapporto con la Turchia, secondo me. Qua si tratta di aprire dei nuovi capitoli negoziali, c'è l'energia ad esempio che per noi è molto importante, si tratta di non perdere la Turchia perché è un attore non solo importante sul piano geopolitico, neanche molto importante economicamente. Vabbè, ah, insomma, è una democrazia islamica, però con un bel tasso di laicità, cioè per essere. Un bel tasso di crescita. E di crescita economica, oltre il 7% in alcuni anni, ed è un baluardo, diciamo, di alcune regole democratiche in un'area, diciamo, che la democrazia la conosce un po' meno, per essere buoni, se pensiamo alla Siria, ma anche. Certo, non c'è dubbio. Ecco, all'Iraq. Per cui, su questo, però, vedo già dei messaggi al 349-238-6666. E vorrei concludere anche su questo, perché quando parliamo di apertura del commercio, libero scambio, molti ascoltatori tirano in ballo il famoso Doha Round, quindi gli accordi del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di Doha, quelli che permisero l'ingresso della Cina l'ingresso nel WTO. Nel WTO. Allora c'è la sensazione, lo dico perché anche una persona che lei stima, perché fa parte dell'Aspen, come l'ex ministro Giulio Tremonti, lo ha scritto spesso, che al di là della crisi in senso stretto, la crisi strutturale del modello produttivo europeo si è iniziata o si è esplosa nel momento in cui noi abbiamo fatto entrare, senza prendere precauzioni su come proteggere il Made in Italy, il Made in France, il Made in Spain, economie che hanno un costo della manodopera, ma anche regole, norme sulla sicurezza, sul sociale molto diverse dalle nostre, che hanno avuto un effetto dumping, cioè di distruggere la manifattura nostra più di base e lasciarci solo quella maggior valore aggiunto, ma di fatto snaturare quello che era il sistema produttivo italiano. Beh, insomma, ci sono su questo le due tesi a confronto. In parte è venuto molto in fretta, insomma, il tempo della globalizzazione è stato in qualche modo compresso e questo naturalmente ha messo in difficoltà le economie occidentali, alla fine compresa quella americana, che peraltro invece si sta riprendendo. È anche difficile avere la prova contraria, cioè cosa sarebbe successo se la Cina fosse rimasta fuori da un sistema che comunque delle regole impone anche alla Cina. Quindi si tratta di imporre alla Cina il rispetto degli obblighi che ha assunto con il WTO più che tenerla fuori dal WTO, io credo. Ma secondo lei, dal punto di vista storico, al di là della noi eravamo comunque destinati a cambiare modello produttivo con o senza il WTO, cioè nel momento in cui queste economie diventano economie di mercato, iniziano a produrre manufatti e beni a costi che sono un ventesimo di quelli nostri, comunque non ce l'avremmo fatta a mantenere quel livello, quella struttura, quel modello produttivo? Ma penso che comunque c'è una realtà globale da tenere presente. È difficile pensare di tenere fuori dallo sviluppo gran parte della popolazione mondiale. Il problema è nel trovare un sistema di regole che ci permetta di difendere il nostro sistema, ma anche modificandolo. È molto difficile che l'Occidente sfugga alla pressione di un sistema internazionale di questo genere. Prima era un mondo chiuso, in cui la nostra parte di mondo stava relativamente bene. Oggi dobbiamo cercare di reggere a una competizione globale rinnovandoci. Se stiamo fermi non ce la possiamo fare. Un'ultima domanda: la sfida più ambiziosa per il ministro degli esteri Bonino, quindi anche per lei in questo momento sul fronte, per l'Italia chiaramente, sul fronte tra politica e economia, qual è? Cioè, brevissimo. Di aiutare attraverso la politica estera la crescita economica, quindi si tratta di aiutare non tanto le grandi imprese che ce la fanno in un certo senso da sole, ma le piccole e medie imprese a internazionalizzarsi davvero. E quindi il Ministero degli Esteri insieme al Ministero del Commercio Economico farà tutto il possibile in questo senso. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a Marta Dassù, Vice Ministro agli Esteri. Grazie mille, arrivederci. Ma noi restiamo su questi temi, perché ripeto, è anche, come facciamo spesso il venerdì, il momento per fare un bilancio di una settimana, iniziata con la fotografia dell'Istat, in cui il 60% delle famiglie ha ridotto la quantità e la qualità del cibo, 15 milioni di italiani in disagio economico, il risparmio degli italiani come propensione che cala ai livelli più bassi dopo solo la Gran Bretagna, meno un milione di occupati a tempo determinato, la crisi anche dei manager, e questa era la parte dell'Istat. Poi è continuata con l'allarme del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, lanciato ieri: anche il nord è sull'orlo del baratro, per poi arrivare alla copertina dell'Economist, che tra l'altro trovate anche sulla nostra pagina di Facebook, di tutti i leader europei che camminano a occhi chiusi e sono a un passo da un baratro, da un precipizio, e il titolo appunto è I sonnambuli. E lo facciamo avendo fatto il record di gufate oggi, ben 3 gufi, gufo, gufa e gufino, abbiamo messo in onda per rispettivamente Hans Widmann, che dice che nel medio termine gli stati europei devono poter far bancarotta, e poi è arrivato, e questo è il primo, l'Economist si è preso un altro gufo, e poi anche Alessandro Profumo quando ha detto che in Italia potrebbero accadere altri casi come il Monte dei Paschi, pure quello. Dopo il traffico ne parleremo con il principe, non dei gufi, ma addirittura di questi uccellacci che girano sul nostro paese, ogni tanto piombano a risvegliarci. Lo facciamo dopo il traffico, dicevo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Non mi potete dare questo stacco che si chiama To Get Lucky quando faccio arrivare l'uccellaccio per definizione, perché questo si spaventa. Andiamo con una cosa che lo evochi. Neve, maltempo al nord, temperature in calo record, e nemmeno io mi sento molto bene, per parafrasare Woody Allen. Professor Giulio Sapelli, piove lassù? No, qui io sono al sud, caro. Allora, sono in una bellissima spiaggia, che sono venuto per lavoro naturalmente, infaticabile naturalmente. A vendere gelati. Sì, anche questo faccio, sai, noi profeti della verità, dobbiamo far di tutto per sopravvivere in un mondo che premia la menzogna. Quindi non mi vergogno, vendo anche gelati. Bene, l'importante è non venderli al Polo Nord. Senta, esatto, professor Satelli, esatto. Come fanno alcuni politici? Lei è migliorato come intelligenza. Mi Perché la invito, perché la invito. Senta, mi dica una cosa, insomma, io ho fatto un quadro, adesso lo buttiamo un po' leggera, perché sennò il programma va in onda solo il 2 di novembre. Qua. Allora, l'allarme l'Istat che fotografa un paese in impoverimento, posso snocciolare tutte le cifre. Certo. Squinzi, presidente di Confindustria, che dice attenzione, anche al nord siamo sull'oro del baratro. L'Economist che oggi il baratro ce lo mette in copertina, Weidmann che dice gli stati comunque nel medio e lungo termine devono poter andare in bancarotta aprendo vari scenari. Allora, come teniamo assieme queste tre belle notizie in questa settimana in attesa della procedura antideficit che venga levata all'Italia di questo Consiglio europeo? Lei che ha appena scritto un libro per Guerini e Società che si chiama Chi comanda in Italia, nel senso la risposta è nessuno, però insomma, non voglio tornare su questo. Come teniamo assieme queste tre cose? Perché mi sembra che qua a chiacchiere stiamo a zero e invece i dati hard continuano ad arrivare, no? Sì, beh, siamo nel mezzo di una trasformazione economico-sociale, un nuovo sistema economico-sociale dalla crisi emerge. E per certi versi devo anche dire che queste cifre non sono se l'inizio del grande processo deflattivo in corso. I dati che giungono dall'America, per esempio, sul cambiamento dell'agenda di consumo delle famiglie americane sono sconcertanti. Gli americani consumano molto meno, fanno attenzione, si indebitano molto meno. Se lei pensa che quel paese esporta il 7% ma importa più del 40% del PIL mondiale, capisce che o cambiamo rapidamente tutte le politiche economiche o il mondo sprofonda in una depressione molto lunga. I dati che giungono dalla Cina preoccupano, perché quando un paese di 1.600.000.000 fa solo il 7%, solo devo dire perché sono tanti, vuol dire che qualcosa sta radicalmente cambiando. In Europa la cosa è preoccupante ed è peggiorata perché abbiamo questa macro rigidità monetaria che impedisce le svalutazioni competitive, che secondo me in questa fase peggiorerebbero solo nel medio-lungo periodo il problema. Quindi parlare di uscire dall'euro cioè completamente suicida, vuol dire farsi ancora più male. Però in Europa cosa ci dice? La politica, siamo sempre alle solite, il diktat che la Germania ha imposto all'Europa tutta con una politica deflazionista, adesso vengono al petto, è arrivata la vera crisi, cioè i prezzi scendono, i consumi calano e quindi la crisi industriale è arrivata. Eh sì, quella che gli economisti studiano come percorso pericolosissimo, perché la deflazione, alcuni potrebbero pensare che sia bello che i prezzi scendano, in effetti non è male, però c'è un piccolo problema, che quando i prezzi iniziano a scendere tu rinvii gli acquisti perché aspetti che scendano ancora di più e quindi la cosa si avvita in una spirale viziosa. Politica deflattiva, questo vuol dire, cioè, che se con il rigore e la non crescita la gente spende meno, i prezzi calano, ma tu continui a spendere meno e a consumare meno. Lei dice è arrivata la vera crisi in questo momento in Europa, certo. però non è che vista la situazione ci possiamo attendere qualcosa di positivo o di illuminante a fine giugno dal Consiglio europeo? Sì, per esempio devo dire io ho apprezzato molto i primi passi del governo Letta. Letta ha fatto questa mossa del cavallo di straordinaria intelligenza politica, cioè ha posto contestualmente la necessità di non inserire nel deficit tanto le spese per gli investimenti quanto quelle per la coesione sociale. Appena usciamo dalla procedura di infrazione, e usciremo senz'altro, avremo 30-40 miliardi che potremo usare immediatamente. L'importante è che si dia sostegno alle famiglie e alle imprese e che contestualmente si inizi un coraggioso fenomeno di abbassamento del carico fiscale e di riduzione degli sprechi pubblici. Bisogna agire su tre punti, ottenere dall'Europa tutte le possibilità di azione che si può, abbassare il carico fiscale e abbattere lo spreco. Mm-mm. E questo è l'elemento di fondo. Poi naturalmente io vedo un secondo punto dove necessariamente, quando avremo fatto una pulizia tecnocratica dello Stato dovrà di nuovo ritornare ad occuparsi dell'economia e a creare anche lui delle imprese, perché col parco di piccole e medie imprese enorme, importantissimo, che c'è rimasto, ma ormai con la distruzione fatta di tante nostre grandi imprese, se non creiamo nuove imprese grandi e medie con la mano pubblica, non usciamo dalla crisi. E questa però vorrebbe dire avere, che uno sia d'accordo o no, una vera politica industriale, cioè una politica che guarda a 5-10 anni, non a 5-10 mesi. Qua stiamo guardando tutti quanti a settembre-ottobre, per capire se il governo... No, scusi, così a 20-30 anni. A 20-30 anni. L'Australia ha fatto un piano di trasformazione economica legata al riarmo che, come sa, ha intrapreso per pericolo dell'invasione cinese, ha fatto un piano a 30 anni, capito? Oggi, voglio dire, a differenza di quello che pensano molti in Italia, sia economisti sia anche imprenditori, che pensano di far fronte al rapido cambiamento tecnologico con l'accorciamento dei programmi, noi dobbiamo allungare i programmi, renderli flessibili, ma dobbiamo pensare nel lungo periodo. Mi dica un'ultima cosa, ieri Beppe Grillo, non parliamo mai di politica, ha proposto, ha detto che a ottobre, settembre-ottobre arriverà il referendum, la raccolta di firme per uscire dall'euro. Allora, io la domanda gliela devo fare, perché io personalmente penso che andremo verso una terra incognita, cioè sappiamo quello che lasciamo, non sappiamo cosa troviamo, ma uno può dire magari troviamo l'America. E cioè magari è l'unico modo radicale immediato per risolvere questa crisi, andare a svalutare la valuta, tornare a esportare. Per favore, mi dica. Ma non diciamo pazzie. Lei sa quanto io sono stato contrario all'entrata dell'euro a suo tempo. È vero. Quanto ho criticato la politica e critico la politica austerità, ma uscire dall'euro è una pazzia e diffondere queste idee fa male alla cultura, alla mentalità, alle speranze. Perché vorrebbe dire avere 28-27 monete, vorrebbe dire avere un'ondata di protezionismo, vorrebbe dire avere un'ondata di... perché poi anche gli altri svalutano competitivamente, ci siamo mica solo noi ragazzi, dobbiamo pensare in modo sistemico, sarebbe una anarchia, una follia, si raggiungerebbe anche, io guardi, vedo, se dovessimo fare questo, vedo anche rispuntare il problema della guerra. Il problema della guerra che nei Balcani c'è stata, guardi che questa cosa, evocare questo referendum per uscire dall'euro, è una pazzia assoluta, casomai si devono negoziare sistemazioni, manutenzioni, andare avanti verso l'unione politica, dare potere al Parlamento, io sono perché la Banca Centrale Europea risponda ad un governo politico e non sia indipendente, però voglio dire, per che questo accada bisogna che ci sia un Parlamento europeo, un governo europeo, un ministro, ormai siamo in ballo, dobbiamo ballare assieme, se no c'è il baratro, quindi è pericolosissimo questo. E noi la facciamo ballare con la nostra Get Lucky, che non è proprio il suo genere, forse il professor Sapelli, però ne ho capito, però non è che... Non posso mettere il Carmine a Burana il venerdì sera con la pioggia fuori, cioè il maltempo, con tre gufi dati. Almeno Chopin. voli. Addio, caro. Addio, no, Sapelli, arrivederci. Grazie. Le mando un po' di gelati. Le mandi gelati dal Polo Nord. Un ringraziamento a Pietro Lacorte per l'assistenza in studio, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, come tutte le settimane. E poi da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana per chi non lavora, ma anche e soprattutto per chi lavora. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.